scenario che ogni giorno ci circonda. La vita è come su un binario e se deragli affonda. Profonda la mia voce, profonde le mie parole. Ormai nessuno in questo mondo sa nemmeno cosa vuole. Il rispetto è una parola che mi lascia una ferita. Se per te è un modo di dire, per me è ragione di vita. La coscienza pulita dentro sto mondo che è un infame. La gente ora i problemi li risolve con le lame. C'è chi amico ha solo il cane, chi impazzisce per la fame, chi fa saltare collane, chi ogni giorno è sotto esame, chi vive mezzo all'etame, vuole uscirne ma non può, invece fa il falegname. Alla vita ci ha detto no, che ne so dove andremo a finire. Qua rischiamo di impazzire, io a volte vorrei sparire. Non voglio manco più uscire, vorrei fuggire via da qua e non pensarci. Questa vita è uno scenario triste, noi dobbiamo starci. Questo scenario triste, mi domando se mai cambierà. Tutto sembra peggiorato rispetto a qualche anno fa, quando eravamo ragazzini senza pensieri e problemi. Non tutto era così triste, vivevamo più sereni. Questo scenario triste, mi domando se mai cambierà. Tutto sembra peggiorato rispetto a qualche anno fa, quando eravamo ragazzini senza pensieri e problemi. Non tutto era così triste, vivevamo più sereni. Tristi sono gli occhi di un ragazzo chiuso in gabbia. C'è chi resta tranquillo, chi negli occhi c'ha la rabbia. È un bene che tu sappia che sapore abbia l'asfalto, perché lì sono le tue radici se arriverà in alto. Stanco di tutto ciò che vedo ma non cedo, sto col branco con le poche persone a cui io credo. Rimpiango di non aver avuto tutti i giorni un padre accanto, mia madre che sotto c'ha sei coglioni. Non piango, cerco di trattenere le emozioni. Intanto metto la vita nelle mie canzoni soltanto. Sotto il palco pochi ma buoni, e mi vanto se Andre mi fa queste produzioni. Sento le pulsazioni, ascolto le mie sensazioni, cerco delle soluzioni, cerco delle spiegazioni. Io non faccio mai nomi, parlo solo coi suoni. Non conta come parli ma come ragioni. Sto scenario triste, mi domando se mai cambierà. Tutto sembra peggiorato rispetto a qualche anno fa, quando eravamo ragazzini senza pensieri e problemi. Non tutto era così triste, vivevamo più sereni. Sto scenario triste, mi domando se mai cambierà. Tutto sembra peggiorato rispetto a qualche anno fa, quando eravamo ragazzini senza pensieri e problemi. Non tutto era così triste, vivevamo più sereni. Questo scenario dentro questa melodia, nel mio mondo immaginario, fra pure in questa notte mia. Veduto triste come quando fuori piove, che in prima pagina sulle riviste chi torna alle nove. Ogni tanto penso a chi si spende tutto quel che ha, a chi prova il male immenso e a chi soldi non ne ha. Chi non ha la testa per fare quello che fa, c'è chi ti detesta, c'è chi si sfoga con il rap. Noi. Penso che mi manca mio papà, ciò che più mi dà dolore è il fatto che non tornerà. E mia mamma come fa, cambierà? Non ho una vita normale, mia sorella troppo bella rischia di crescere male. Io sto giù di morale, non credo più a quello che dite. Tutti bravi a parlare ma poche le persone amiche. Scena sempre più triste, come sarà? Io non lo so, la vita offre più piste, quali di queste sceglierò? Sto scenario triste, mi domando se mai cambierà. Tutto sembra peggiorato rispetto a qualche anno fa, quando eravamo ragazzini senza pensieri e problemi. Non tutto era così triste, vivevamo più sereni. Sto scenario triste, mi domando se mai cambierà. Tutto sembra peggiorato rispetto a qualche anno fa, quando eravamo ragazzini senza pensieri e problemi. Non tutto era così triste, vivevamo più sereni.